Ingrid. Tommy non si era presentato ai colloqui con gli insegnanti come aveva promesso. Perciò Ingrid si ritrovò strizzata da sola in uno dei banchetti con maestra Birghetta, come veniva chiamata a scuola, seduta davanti a lei. Dall'ultima conversazione con lui faceva fatica a pensare chiaramente. Com'era possibile che suo marito dimostrasse una simile mancanza di empatia? Le donne della redazione venivano terrorizzate da quei due satiri da tempi immemorabili e nessuno aveva fatto niente, nemmeno Tommy. A parte partecipare ai talk mattutini per parlare di parità e vantarsi di aver ammesso una donna nel comitato di redazione. Era un ipocrita. E lei era peggio di lui, se lo lasciava fare invece di metterlo con le spalle al muro. Come faceva a pensare di poter trattare le sue dipendenti come voleva? Come faceva a pensare di poter trattare lei come voleva? «Aspettiamo il direttore?» chiese Birghetta lanciando un'occhiata verso la porta. «Non è necessario. Purtroppo oggi non ha potuto staccarsi dai suoi impegni», rispose Ingrid in modo meccanico. Quante volte si era sentita ripetere quella frase negli ultimi anni? Perché continuava a proteggere quel porco traditore? «Che peccato», disse Birghetta. «Ma ovviamente capisco. Fa un lavoro importante, con tutte le cose terribili che succedono in giro per il mondo». Ingrid non rispose, ma a quanto pareva, Birghetta non aveva ancora finito di tessere le lodi di Tommy. «Ho letto il suo editoriale, domenica. Scrive con una tale passione. Deve essere davvero orgogliosa di lui». Con uno sforzo per non alzare gli occhi al cielo, Ingrid cambiò posizione sulla seggiolina scomoda e traballante. «Possiamo iniziare?» «Ma certo, cara», rispose Birghetta unendo le mani. Diede una rapida occhiata ai fogli che aveva davanti prima di proseguire. «La piccola Lovisa ha preso dalla sua mamma tanto bella e dal suo papà tanto intelligente. Ha ottimi risultati in tutte le materie». Ingrid si sedette in macchina. Non poteva andare avanti così. Doveva fare qualcosa. Ribolliva di rabbia. Prese il telefono e scrisse un SMS alla babysitter, chiedendole di restare 2 ore in più. Poi, senza aspettare che rispondesse, si diresse verso la redazione dell'Afton Pressen. Dopo aver girato in tondo parecchi minuti in cerca di un parcheggio, si stufò e si fermò in una piazzola per carico e scarico. Entrò di slancio dalle porte scorrevoli e stava per raggiungere quella girevole della redazione quando si rese conto di non avere più il tesserino. Tornò sui suoi passi e si rivolse alla ragazza alla reception. «Devo vedere il direttore dell'Afton Pressen, Tommy Steen. Ha un appuntamento? Sono la moglie». La receptionist le rivolse un sorriso imbarazzato. «Mi spiace, deve comunque avere un appuntamento, sono le nostre procedure. Magari può chiamarlo e chiedergli di scendere a prenderla». Ingrid si sporse in avanti e la inchiodò con lo sguardo. «Adesso tu apri quella porta, hai capito?» La ragazza stava per parlare, quando Ingrid sentì una voce che la chiamava alle sue spalle. Era una ex collega, Mariana Babic, che la salutò con un abbraccio. «Sei passata a trovare Tommy?» «Pensavo di salire, sì». «Peccato. Speravo quasi che fossi tornata da noi, ma in quel caso ovviamente avresti avuto il badge. Seguimi». Mariana passò il tesserino sul lettore e la fece entrare. Mentre salivano in ascensore, Ingrid non riuscì a non chiedersi se l'ex collega sapesse delle relazioni di Tommy. Erano arrivate all'Afton Pressen insieme e si erano frequentate parecchio anche fuori dal lavoro. Adesso Mariana era a capo della redazione politica. Era uno dei pezzi grossi del giornale. Ingrid si sentiva inferiore, lenta e confusa di fronte all'allegra selva di domande di Mariana. Non c'era anche un sottotono di compassione nella sua voce? L'ascensore si fermò. «Non hai bisogno che ti indichi il suo ufficio, vero?» chiese l'ex collega ridendo. «Credo di poter trovare la strada da sola». Appena prima di separarsi, Mariana tornò seria. «Sarebbe... dobbiamo vederci uno di questi giorni. Ti va?» «Certo», rispose Ingrid, anche se sapeva di averlo detto più che altro per gentilezza. «Bene, allora. Ci vediamo». Mariana l'abbracciò e poi sparì in fondo al corridoio. Ingrid proseguì verso l'ufficio di Tommy. Lungo il tragitto riconobbe alcune facce, che salutò senza fermarsi. Passò davanti alla redazione Cultura e superò il desk centrale, il cuore del giornale. L'ufficio a vetri del direttore era posizionato in modo da permettergli di tenere d'occhio l'attività della redazione. Tommy era seduto con i piedi sulla scrivania, intento a scrivere sul portatile appoggiato alle cosce. Ingrid bussò ed entrò senza aspettare risposta. Lui alzò gli occhi sorpreso. «Cosa ci fai qui? Lovisa sta bene?» «Sì, non preoccuparti». Ingrid chiuse la porta, mentre Tommy si raddrizzava sulla sedia e posava il computer. «Allora, cosa ci fai qui?» Ingrid si sedette su una delle poltroncine per gli ospiti. «Come andrà a finire con Ola Patterson e Christian Lovander?» Il marito le scoccò uno sguardo penetrante. «Cosa intendi?» «Ho visto su internet che le accuse che gli sono state rivolte sono serie». «Perché cazzo ti precipiti qui per discutere di questo argomento? Credevo di essere stato chiaro l'altra sera». Ingrid guardò l'open space della redazione, oltre i vetri. Poi tornò a voltarsi verso di lui. «Alla prima festa estiva del giornale a cui ho partecipato, Ola Patterson mi ha infilato le dita sotto la gonna, dicendo che uno dei compiti delle neo-assunte era farsi un giretto di prova con lui. Aveva 40 anni e io 23. Tommy la fissava con occhi vacui. Ingrid si domandò come avesse sedotto la giovane giornalista che gli aveva fatto quel pompino in macchina. Forse era una di quelle che aveva incrociato poco prima. «È un idiota, ma...» «Ma cosa, Tommy? È un idiota, ma ha vinto il premio nazionale di giornalismo e quindi può tranquillamente infilare le dita nella figa delle ultime arrivate? Christian Lovander ha vinto la Penna d'Oro, quindi dare della troia alle neo-assunte fa parte dei suoi benefit aziendali?» «Calmati, sai che non è quello che penso». «E allora cos'è che pensi?» Tommy sospirò, passandosi una mano sulla barba di qualche giorno. «Licenziali», proseguì Ingrid. «Come fa questo quotidiano a essere credibile quando scrive di quel presentatore televisivo accusato di molestie sessuali se prima non fa pulizia al suo interno?» Poi esplose. «Sei un ipocrita, un maledetto codardo ipocrita». Tommy trasalì. «Cos'hai? Calmati». Lanciò un'occhiata preoccupata verso la redazione e fece un cenno di saluto a una persona che passava. «Se quei due porci non sono licenziati entro 48 ore, andrò al notiziario nazionale a raccontare un paio di esperienze personali con le bravate di Ola Patterson». «Non lo faresti mai», rispose lui, all'improvviso rosso di rabbia. «Non sei sleale fino a questo punto. Danneggeresti il giornale. Danneggeresti me». Mentre parlava, si era alzato di scatto, facendo cadere rumorosamente la sedia. «Lealtà. Chi era lui per parlare di lealtà?» Ingrid aprì la bocca per gridargli che sapeva tutto, ma poi cambiò idea. Strinse i pugni e fece un respiro profondo. «Me too». Le regole del gioco erano cambiate, e lei avrebbe giocato bene le sue carte. Tommy rimase a guardarla furibondo. «I due porci devono essere fuori dal giornale entro 48 ore», ripeté lei calma prima di alzarsi. Poi uscì dall'ufficio tremando di collera e attraversò tutta la redazione con lo sguardo fisso davanti a sé, senza salutare nessuno.